sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'appuntamento con Paolo era per le 7 del mattino al parcheggio della Bocciofila. Da lì saremmo partiti con un'unica auto verso Modena, direzione Polisportiva Morane. Sono Mauro, vivo a Finale Emilia in provincia di Modena, sono sposato e papà di Leonardo, opero nel settore assicurativo come collaboratore per una società di brokeraggio, ho giocato per anni a biliardo seppur a livello amatoriale con diverse pause di riflessione, nel tempo libero divoro libri e butto parole su fogli di carta, sogno di lavorare nel settore dell'editoria. Ma di tutto quello che ci ha raccontato Mauro, rimangono due parole chiave in questa puntata, che sono bocciofila e polisportiva. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 minuti in punto, in una, devo dire, un po' come ieri, non splendida giornata, climatologicamente parlando qui a Milano. Andiamo in onda con l'ennesima storia di Voi Siete Qui, e Voi Siete Qui appunto è un programma in cui raccontiamo una storia al giorno, un episodio che racconti qualche cosa di voi. Prendete la carta e la penna, prendete il computer e cercate di immaginare qual è stato l'episodio che in qualche modo vi rappresenta, o magari rappresenta una piccola parte di voi. So che non è così immediato, ma se ci pensate un po', potrebbe succedere, ad esempio, come è successo a Mauro, che ha detto: sai cosa? Quella finale di biliardo alla Polisportiva Morane di Modena potrei mandare a Voi Siete Qui. 349-238-6666. Oggi, diciamo, i messaggi sono aperti a tutti gli esperti di biliardo. Il biliardo, attenzione, ne parlavo prima con Fabio Cantadori, che io e lui guardavamo alle 3 di notte su Rai 3, prima e poi adesso su altri canali dedicati allo sport. Eurosport la manda in onda molto spesso. È uno di quegli sport che può essere, se si può chiamare sport, è uno sport, è un hobby, è un'attività, una disciplina, attenzione. È una di quelle discipline che può essere da una parte ipnotica, dall'altra no, cioè, dipende da come la guardi, da come, e da come la fai. Per cui vi chiedo di ascoltare la storia di Mauro tenendo presente queste parole, che sono bocciofila, polisportiva, ma anche akido. Quando la domenica mattina la sveglia suona alle 6:30 e mentre ti rechi in bagno scivoli e scendi le scale con il fondoschiena, non è affatto un buon auspicio. L'appuntamento con Paolo era per le 7 al parcheggio della Bocciofila. Da lì saremmo partiti con un'unica auto verso Modena, Polisportiva Morane. Il sabato della settimana precedente avevamo vinto il girone eliminatorio, sbaragliando tutti gli avversari. 3 partite a eliminazione diretta. Avevamo di fatto guadagnato l'accesso alle fasi finali del campionato provinciale a coppie di biliardo specialità boccette. Arrivammo alla sede di gara dove avremmo dovuto affrontare un'altra batteria da 8 coppie. Una prima occhiata distratta, giusto per notare tra i presenti alcune coppie di avversari riconoscibili per la maglia della squadra di appartenenza. E tra questi spiccava una coppia appartenente alla squadra più titolata di tutta la provincia. Sulla maglia non si potevano non notare gli scudetti riferiti ai vari titoli vinti: campioni provinciali a squadre, campioni regionali a squadre e un paio di altri trofei. Sembravano le tacche che i cowboy intagliavano sul calcio del loro fucile, per una per ogni vittima caduta sotto il colpo delle armi. Con un occhio aperto e uno chiuso, Paolo ed io andammo al bar della Polisportiva per cercare la necessaria adrenalina in una tazza di caffè, rigorosamente doppio, visto che erano state soltanto 3 le ore di sonno. Con la fortuna che ci ritroviamo, il sorteggio ci farà incontrare subito i supercampioni, mi disse Paolo. E vabbè, vorrà dire che avremo fatto una bella gita di prima mattina e torneremo a mangiare i tortellini a casa nostra, risposi. Il gioco del biliardo di per sé è magia, magia perché coniuga diversi aspetti della personalità dell'uomo praticamente, cioè c'è la geometria che è qualcosa di puramente matematico, c'è l'emotività che fa parte comunque dell'uomo e tutto questo deve essere diciamo così guidato da una certa precisione nell'effettuare i tiri sul tavolo verde. Ore 8:30. Il giudice di gara ci chiamò al biliardo 1 per i consueti 5 minuti di prova. A seguire proveranno al biliardo 1 i signori? Sì, proprio loro, i Terminator delle boccette. Paolo mi guardò sorridendo, un sorriso misto tra lo sconforto e l'autoironia, quasi voler contrastare invece l'ironia di quella sorte che ci stava mettendo subito alla prova. Provata, spinta per l'accosto e le angolazioni delle sponde, il giudice di gara ci annunciò l'ultimo minuto di prova, durante il quale il bocciatore della copia prova la battuta di Akito. Anche la mia bocciata sembrava proprio non voler entrare, e la prospettiva dei tortellini si stava facendo sempre più concreta. Era ora la volta dei nostri avversari, stavano provando il biliardo con invidiabile disinvoltura, quasi a volere demolirci psicologicamente, ostentando la naturalezza con la quale riuscivano a realizzare ogni tiro sul tappeto verde. «Fine prova!» disse il giudice di gara. Paolo e uno dei nostri avversari si avvicinarono al biliardo per giocarsi la sponda, ovvero la possibilità di effettuare il primo acchito della partita. Si aggiudica il primo acchito chi si avvicina maggiormente con la propria biglia alla sponda inferiore, dopo aver colpito la sponda superiore, con una traiettoria verticale, nota anche come tiro a candela. Niente, non era proprio giornata. Entrambe le biglie erano a pochi millimetri dalla sponda. Solo l'intervento del giudice di gara riuscì a stabilire che la prima bocciata di acchito sarebbe spettata ai nostri avversari. Il bocciatore rivale si accinse a posizionare il pallino appena oltre la linea che delimita trasversalmente la metà del biliardo. Il silenzio apparve quasi surreale e la pausa di concentrazione del nostro avversario sembrò infinita. Un movimento plastico del braccio e la biglia del nostro avversario impattò il pallino con assoluta precisione, imprimendogli una traiettoria tale da abbattere 4 dei 5 birilli posti sulla tavola. Una bocciata che fruttò ai nostri avversari i primi 10 punti, pronti via. Dopo le prime 6 mani di gioco, una la fotocopia dell'altra, sembrò non esserci partita. 52-11 in favore loro. Gli sarebbero bastati 18 punti per vincere la partita, e a noi sarebbe servito un miracolo. Eppure, avevamo esaurito le biglie a nostra disposizione, e la biglia nostra, quella che teneva il punto, cioè quella più vicina al pallino rispetto a tutte le biglie in campo, era distante circa 15 centimetri. Guardai Paolo, che ricambiò con sguardo rassegnato, pensando che avversari di tale bravura e esperienza si sarebbero aggiudicati il successivo acchito anche ad occhi chiusi. Ci voltammo entrambi verso il biliardo quando udimmo un pugno sbattere violentemente sulla sponda del tavolo e le imprecazioni non proprio sussurrate del nostro avversario. Un calo di concentrazione. L'eccessiva sicurezza nel sentirsi già la vittoria in tasca. Chi lo sa, fatto sta che il nostro avversario ci regalò di fatto la possibilità di andare alla bocciata d'acchito. L'acchito è praticamente, nel gioco delle boccette, è l'inizio di ogni mano di gioco. In sostanza, il giocatore praticamente fa oltrepassare il pallino blu alla mezzeria del biliardo e con una biglia colpisce per cercare di mandare il pallino blu in mezzo ai birilli e ad abbattere i birilli. Raccogliamo le biglie dal biliardo e prima di accingermi alla bocciata di acchito, Paolo ed io ci scambiamo uno sguardo, breve, ma colmo di tutte quelle sensazioni positive che solo due giocatori affiatati e uniti da anni di gioco insieme riescono a trasmettersi. Ostentando freddezza, seppur teso ed emozionatissimo, mi avvicinai al biliardo per il mio acchito. Lasciai che il pallino oltrepassasse appena la linea di mezzeria del biliardo e con la mia biglia in mano iniziai a concentrarmi. Un intero minuto per individuare il punto esatto in cui impattare la mia biglia sul pallino. Un intero minuto durante il quale ci sei solo tu e il pallino, mentre tutto ciò che ti circonda si riduce ad ombre sfocate. Con il morale ritrovato, picchiai il pallino con la mia biglia e realizzai il filotto che ci valse 8 punti. Un nuovo punteggio 52-20 per i nostri avversari, che cercarono di ricomporsi. Paolo ed io percepimmo immediatamente che qualcosa di loro si era incrinato. La riprova la si ebbe quando anche l'altro nostro avversario sbagliò un tiro elementare, consentendoci così di realizzare 3 punti di accosto e una nuova bocciata di acchito. riuscì a realizzare 10 punti anche con il secondo acchito consecutivo, portando il punteggio sul 52-31, sempre ovviamente in favore dei nostri avversari. Loro erano a pezzi e noi rinati. Ci aggiudicammo 4 delle 5 mani successive, di cui 3 consecutive, ed arrivammo a chiudere la partita sul punteggio di 52-71. Da quell'incontro il nostro cammino nella competizione fu in discesa, macinando partite e vittorie fino alla semifinale, alle ore 18:30, dove i nostri meritevoli avversari si avvalsero dell'aiuto di un nuovo alleato, la nostra stanchezza. Arrivammo terzi, assoluti, suscitando curiosità e tifo di tutti i giocatori più titolati di noi, sconfitti proprio da coloro che si sarebbero aggiudicati il titolo di lì a poco. Ora ho appeso le palle al chiodo, ma ogni volta che ripenso a quella domenica, il mio pensiero va inevitabilmente a Paolo, che oggi non è più con noi. Autoscatto in una sala di biliardo, quello che ci ha mandato Mauro, che trovate sul nostro sito, ovviamente sempre quello. Voi siete qui Radio 24, indossa una polo a righe, ha i capelli appena appena brizzolati e ha la faccia, non so perché, ma di qualcuno che mi sembra di conoscere. Pronto Mauro? Buonasera Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Abbastanza bene, grazie. Sì, buonasera, hai ragione più tu che io, diciamo, anche dalla luce che c'è a quest'ora della giornata. Dove ti trovi in questo momento? Allora, in questo istante sono in auto perché sono appena uscito da un incontro con un cliente. Perché? Ricordami esattamente cosa fai? Lavoro nel settore del brokeraggio assicurativo. Ok, quindi... consulente intermediario assicurativo, in sostanza. Ma quindi vendi assicurazioni semplici tipo RCA, RCA si chiama, no? Allora, trattiamo... RCA. Tutti quelli che sono i rischi che si possono trasferire al mercato assicurativo, quindi all'RC auto, alle coperture per l'incendio, lavoriamo prevalentemente con aziende. Quindi ah, ecco, ok, intendevo dire aziende comunque, non privati. Sì, sì, sì, sì. E come va il lavoro della assicurazione? Le assicurazioni patiscono il colpo di questi ultimi anni oppure... Allora, le assicurazioni patiscono il colpo nella misura in cui la crisi morde, nel senso che più aziende chiudono e chiaramente più portafogli le compagnie perdono. Per quanto riguarda invece la nostra attività in particolare, paradossalmente più si sente la crisi e più noi riusciamo sia ad approcciare le aziende, perché il nostro intento è quello di far risparmiare, cioè di trovare, di reperire la soluzione assicurativa con miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi tu cosa fai? Sei spesso in giro oppure lavori? Sono prevalentemente in giro. In che zona? Modena Reggio. Perché tu sei di Modena, giusto? Provincia di Modena. Che è dove è ambientata la storia, giusto? Esatto. Beh, ci ricordi gli anni anche in cui accadde? Allora, vado a memoria. Dovrebbe essere stato nell'89. Ah, ok, insomma, un bel po' di anni fa. Sì, ormai 25 anni sono. Cioè, eravate due ragazzini? Io avevo appena 25 anni e Paolo aveva qualche anno più di me, 7-8 anni più di me. Ok, il biliardo com'è che ci... A parte che erano altri anni in cui probabilmente si usava a giocare di più a biliardo, ne parlavo anche con Fabio, cantatore di là dal vetro, che diceva quando tagliavo a scuola andavamo a giocare a biliardo, e credo fosse una roba comune di questa generazione più o meno. Guarda, no, non ti nascondo che i miei migliori allenamenti li ho fatti all'Accademia del Biliardo sotto le due torri a Bologna, quando frequentavo la facoltà a Bologna. L'Accademia del Biliardo, è arrivato un messaggio di Massimo che dice: io invece quando ero allo superiore con gli amici decidevamo di tagliare scuola, è un altro, andavamo in un tempio dei biliardi di Torino, si chiamava l'Impera o Impera, era un locale sotterraneo, almeno di 3 sale, più o meno avevano tutti quest'aura, chissà perché i locali da biliardo hanno quest'aura un po' fumosa e non ci possono essere delle finestre con l'aria che corre, no? Da questa sensazione appunto di luogo di perdizione, quindi tavoli che poi ci sono degli uomini che giocano con delle stecche e delle palle, insomma la perdizione, esatto, non è così, esatto, alta. Senti, quando è che è mancato Paolo? Paolo è mancato incontrato già 7-8 anni fa. Ah, ok, e quindi era un amico caro, oppure erano ricordi che risalivano all'epoca? No, abbiamo praticamente condiviso circa 20 anni di partita a biliardo insieme, per cui si era creato una notevole amicizia e un notevole affiattamento. A proprio questo riguardo, Mauro, visto che ne parlavo in apertura, no, del fatto che questo programma è un programma che racconta storie che le persone che decidono di condividerle, come te, scelgono in quello che è l'archivio delle storie della propria vita, cioè all'interno della propria esperienza, della propria biografia, decidono di scegliere un episodio per raccontare qualcosa di sé. Tu sapresti spiegare il motivo per cui hai scelto proprio questo, per dire qualcosa di te, della tua vita o di Paolo? Ma guarda, forse perché volendo così dare un'aurea poetica al biliardo è una metafora della vita, nel senso che il biliardo, come dicevo, come hai fatto sentire in trasmissione, coniuga tutti quelli che sono diversi effetti, cioè la fantasia, la determinazione, la concentrazione, la voglia di arrivare. Basti pensare che su un biliardo, per arrivare in un punto con una biglia, ci sono infinite strade. Poi certo. Sta a te decidere la migliore, sta certo. A te... E infiniti angoli anche, direi, considerato, esatto, detto da uno che non ha assolutamente idea di come si colpiscono due palle una dopo l'altra. Mauro, ti ringrazio per la storia, per la chiacchierata. Ti ringrazio te. In bocca al lupo per tutto. Crepi e un saluto a tutta la redazione. A presto. Ciao, grazie Mauro. Ciao Matteo. Ciao. E alla fine, dalla storia di Mauro, ho capito che, primo, il biliardo è uno sport o una disciplina di grande concentrazione. Secondo, scivolare in bagno la domenica mattina invece può essere di ottimo auspicio. Terzo, battere quelli più forti, che fanno i fighi, dà molta più soddisfazione. Quarto, un terzo posto a volte può assomigliare quasi a un primo. E soprattutto, quinto, tenere un profilo basso aiuta sempre. Proverbio biliardesco delle mie zone, mi dice, mi scrive non so chi perché non si firma: quando la palla fa tatà, il giocatore non ce se fa. Che più o meno ho capito cosa vuol dire, ma non capisco che dialetto possa essere. E allora, visto che prima si parlava di dialetti ma anche di modi di dire, come dice Paolino Corleoni, con questi qui la guerra non gliela famo a vincere. grazie a Fabio Cantadori, grazie a Mire Lucchetti, Tiziano Bonini ovviamente e Mauro Pescio. Grazie soprattutto a Mauro, perché la storia di oggi era la sua e anche lui ha un punto rosso su una mappa. Sono Paola, vivo a Bolzano, la storia di domani è la mia e parla di un viaggio e la passione per la bici da corsa. Questa è la mia storia ed io sono qui.